se volete la verità. Andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Il futuro è passato e non ce ne siamo nemmeno accorti. Ain't no illusion. Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, go let it out. Go let it in. And go let it out. Il destino della sinistra è più grande di singoli leader che decidono per i fatti loro quando andare e quando restare, tradendo l'ideale della vita. Dovessi diventare segretario del Partito Democratico, la prima cosa che faccio è tentare di riunificare non solo il centro-sinistra dal centro del cattolicesimo democratico alla sinistra, ma riportare a casa la scissione che è stata voluta, desiderata dal segretario uscente proprio per liberarsi di ogni opposizione. Per me non c'è nulla di personale, ci sono grandi problemi del paese. Se vuole glieli elenco, perché così ci liberiamo da questo stupidissimo duello rusticano, diciamo, che proprio è una stupidaggine, insomma, è una guapperia. Diciamo. Allora, signori, avete comprato i popcorn? Ma come, per che cosa? Ancora? Per lo spettacolo Partito Democratico, ne vedremo delle belle, signori. Si va lì la mattina, si fa un po' di festa. E a lei, caro Vincenzino. Sì. Sei pronto anche tu, secondo me le sentiremo. Guappi, guapperie. In una botta sola. Evviva, signori! Sì, ogni tanto devo dire qualche puntata di questa telenovela annoierà del Partito Democratico, ma comunque i popcorn ci sono, la birra c'è, patatine pure. Rock duro. Ogni giorno ce ne sarà una, ogni tanto ci sarà una puntata buona, ogni tanto ci sarà una puntata un po' così così. Sei contento? Assisteremo a qualcosa di buono prima della conduzione 4.0 di Vincenzo De Luca qui a 24. Tutti a Malindi. Oh, noi. Tutti a Malindi, noi. Intanto faranno più gradi a Malindi. La mia tosse, mannaggia. Faranno più gradi a Malindi che a Milano. A Milano ci sono 7 gradi questa mattina. A Pandino, Cremona, 8 gradi. Ci fa sapere Tonio, anche 8 gradi a Vicenza. Luca continua a sostenere che sia finito l'inverno. A Reggio Calabria 12 gradi, però signori, qui è spettacolo perché siamo internazionali. Allora vi faccio sapere che a Stellenbosch Fabio ci informa ci sono 17 gradi. Se non sapete dove sia Stellenbosch, è un posto magnifico tra i vigneti sopra Città del Capo in Sudafrica. Città universitaria magnifica, io l'ho visitata, fantastica. E poi ecco qua, guarda qua, a Kampala, dove ci ascolta Alessandro, siamo in Uganda. Ci sono 21 gradi in questo momento. Che bello, eh? A Kampala. In Francia Corta 4 gradi, grazie a Daniele. E così a Pabillonis Cagliari 12 gradi. E va bene. È così. È così, guardate, ci scrive anche da Chennai, India, fresco, solo 28 gradi. Caro Luca Dini, tu che sei stato in India buongiorno. Di recente, buongiorno, il direttore di Vanity Fair, come stai? Tutto bene, a casa mia 18 gradi. 18 gradi, ah, non sei di quelli che ti fai crescere le mangrovie in casa con quei 25-26 no. gradi. 18 gradi, ah, però 18 gradi. Pinguino. Pinguino. Si sa. Senti, ma quando condurrà De Luca al posto mio qui con la conduzione 4.0, tu interverrai comunque? No. No? Ah, così? No. No. Improbabile. Improbabile, esatto. Esatto, forse non scatterà l'invito. Ma signori, oggi abbiamo insieme a Luca Dini la nostra Veronica. Cara Veronica, è un mese che ti ho chiesto se sei single oppure no e ancora non mi hai risposto. Sì. Dai su, non ci vuole molto. Se sei single mi dici sono single, se sei fidanzata mi dici sono fidanzata, sì, se ne cambi uno al giorno mi dici ne cambio uno al giorno. Chissà. Che è un'opzione interessante, questa non l'avevo presa in considerazione. Non per ora, non per Devo ora. Devo dire che la terza opzione va valutata. La famosa terza via. Esatto, capito? La terza via poi si rivelerà tra un po', no? Essere fuori tempo, fuori luogo. Ma intanto quella ventina d'anni uno al giorno, eh? Veronica Gentili così alimenta i sospetti di essere single. Così alimenta i sospetti. Manterremo ovviamente questo piglio inquisitorio alla Di Pietro. È vero, la musica è quella della Pantera Rosa e sì. Tu hai un che della Pantera Rosa, diciamolo, sciocchina. Eccolo. Per aprire le danze. Eccolo, per aprire le danze, è uno. E siamo solo alle 6:36 minuti. Dobbiamo... È solo l'inizio e chissà, dobbiamo aprire il Parlamento? Allora ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra così, io vi voglio bene, ma... Forza, allora, gente, è pieno di tanti argomenti interessanti che adesso stare a ridurci a parlare del Partito Democratico, caro Luca Dini, forse oggi ve lo risparmio, se volete fare qualche battuta. Grazie. Così... Grazie. No, perché più che il popcorn ci vuole il Prozac. Il Prozac, effettivamente. Non è male, Prozac e birra. Lo allora, sai che poi li difendo, quindi è meglio che non lo facciamo. No, infatti, dai, per un giorno lasciamo stare. Allora, c'è questa notizia, dai, è inutile, non possiamo che parlare di questa notizia, che proviene da Trento. Io non lo so, non è che bisogna avere un'opinione su tutto e quindi io su questa mi astengo dal giudizio. Però la prima decisione storica di un giudice che dice che due uomini che sono andati con la maternità surrogata a fare un figlio in Canada, quindi uno dei due è biologico e l'altro no, di padre, sono venuti in Italia, eccetera, e per la prima volta storica, sentenza, perché per ora si riferiva solo alle donne, ora anche due uomini possono e devono, per il Tribunale di Trento, essere considerati entrambi papà. Entrambi papà, entrambi genitori, non solo quello biologico ma anche l'altro che biologico non è. E via le polemiche. Cioè, al di là delle polemiche, il dato di fatto, caro Luca Dini, c'è. Cioè ci sono, non tanti, non tantissimi, ma bambini che crescono in queste situazioni. Ora che fare? Quindi prenderne atto e dire è giusto considerarli papà e papà? Ma guarda, quando una legge ipocrita lascia un vuoto legislativo, il compito dei giudici è quello di non necessariamente riempirlo, però prendere delle decisioni su cose che già esistono, perché in questo caso questi bambini esistono, ci sono due padri che sono stati certificati tali da un paese straniero che non è la Repubblica delle Banane, e secondo me, quindi, cioè, anch'io devo dire... Non ho un'opinione sicurissima su queste cose, però se il giudice dice che ha preso una decisione dando priorità all'interesse dei bambini, io non posso dire nulla onestamente, perché sì. L'interesse dei bambini è sicuramente la cosa più importante, quindi Quindi rispetto a questa decisione, ma tra l'altro oggi il Parlamento debba esprimersi su queste cose. Sì, tra l'altro, no, perché come al solito la realtà è anni luce avanti rispetto al Parlamento. Cioè, il Parlamento, come la questione adesso, non è che voglio mettere insieme le due cose, ma si è discusso anche del suicidio assistito, di DJ Fabo. Cioè, le persone, la vita reale va. E il legislatore lo insegue così lentamente, cerca, no? Purtroppo i vuoti normativi sembrano essere rassegnati a rimanere su alcuni temi finché l'opinione pubblica non si compatta gradualmente in una direzione, no? Come abbiamo visto succedere poi in altri versi con le unioni civili, cioè la legge è stata fatta quando i tempi erano stramaturi, perché è vero che era rimasta insomma una minoranza di cattolici particolarmente ritrosi e resti, ma ormai anche nell'opinione pubblica l'idea delle unioni civili era stradigerita. Allora, come sul fine vita, che è una questione credo veramente in grande parte dell'opinione pubblica ormai accettata, la politica sta aspettando che si finiscano di rompere le ultime resistenze senza avere mai un filo di coraggio nel prendere posizione, senza voler rompere gli equilibri vari che si sono creati attorno, e poi quando tutto si è sedato e stupito intorno e non ci sono più polemiche, a quel punto prende delle decisioni. Secondo me a volte manca anche il finale, cioè tutto bello se ci arrivassero, in realtà le decisioni a volte non le prende manco. Non le prendono comunque, ma comunque io trovo grave che si aspetti di avere una unanimità da parte della popolazione, perché poi i normativi, soprattutto in tema di diritti, possono essere di una gravità agghiacciante. Adesso ne abbiamo parlato tanto della questione di DJ Fabo e di quello che è successo, ma che ancora adesso i radicali, che poi appunto quando si va a votare prendono delle percentuali minime, sì, l'1%, hai capito? E infatti oggi la Bonino dice basta dire che i politici non si occupano di queste cose, noi radicali non facciamo i cuochi, facciamo i politici. Ha ragione Marco Cappato, che si è preso carico di questa questione, è un politico, è uno che fa politica, sì, che fa tra politica l'altro su Milano. Rimanendo sul punto, sulla questione dei padri, oggi Vendola, perché subito ovviamente si pensa a lui, fa una bella intervista al Corriere della Sera, devo dire che poi la leggerò in rassegna stampa, un'intervista nella quale dice che volete che vi dica, io per la legge italiana non sono nessuno, non sono per mio figlio, e vivo tutto questo con disperazione, visto che da un anno non passa giorno che non gli ho dato il biberon, che gli ho cambiato infatti il pannolino, ci gioco come un matto, lo nutro, lo curo, lo amo alla follia, eppure vivo in un limbo giuridico. Ma l'altra cosa è l'ipocrisia, capito? Perché nel momento in cui queste realtà si verificano e si sa che si sono verificate, pensare che poi ci siano due padri a tutti gli effetti che crescono un figlio, che ne sono effettivamente i due genitori, ma che poi uno dei due non ha diritti su questo bimbo, diritti e doveri, perché poi qualunque cosa accada domani, questo bimbo si ritrova, dovesse perdere uno dei genitori, la tutela dell'altro è grottesco. Sicuramente fa impressione. Situazioni di limbo in cui le cose restano lì a stagnare. E però molto io dico, che devono colmare io i dico, normativi. Aggiungo, non so Luca se sei d'accordo, ma qualche perplessità mi sembra anche tu l'hai colpita. Cioè vedo la vicenda e non lo so, mi fa un po' impressione, cosa devo dire? Magari ma non siamo semplicemente sciocchina, abituati. Sì. Ecco sciocchina due. Sciocchina, dimmi cosa ti lascia per te. No, ma capito, ma sarò fatto all'antica. Luca, aiutami, sarò fatto all'antica no, con guarda, queste ventenni che ne cambiano una al giorno. Quello che ha detto Veronica è giustissimo, cioè da noi la politica, non i singoli politici, perché c'è chi fa le battaglie e le fa da tantissimi anni, però diciamo che collettivamente la politica ha rinunciato a essere una guida invece che a seguire il paese. A volte ci vorrebbe anche il coraggio di fare cose che per le quali la collettività non è necessariamente pronta. A volte impopolari. Anche impopolare, invece da noi si aspetta veramente che i tempi siano non maturi, marci quasi. Sì, proprio sì, allora, con la pera caduta per terra, marcia, sì. Io quello che vedo soltanto è che nei paesi dove certe decisioni sono state prese, c'erano perplessità come le tue e forse in parte anche le mie, e poi gradualmente quando tu di fronte alla normalità della vita di queste persone, le perplessità cadono. Perché le perplessità sono soltanto di chi ragiona teoricamente, non di chi vede questi bambini. No, ma io mi rendo conto, cioè perché io sono una persona più che meno giudica il prossimo, più amoralistica, nel senso che non faccio la morale a nessuno. E dovessi conoscere due persone che crescono un figlio, due donne, due uomini, sarei assolutamente con loro amorevole, amico, sarei pronto a conoscere anche con curiosità. Questo sembra un po' amici gay, eh. No, ma no, ma davvero, davvero. Quindi devo ammettere quindi, che no, è ma era per venire, per no, era per venire incontro alle tue idee. Quindi semplicemente si dovrebbe fare come dici tu, cioè che il legislatore faccia delle cose che magari suonano dal punto di vista legislativo un po' strane, un po' diverse, anche scioccanti magari, e che però in realtà se uno è abituato a viverle nella vita quotidiana non le trova per nulla strane, per nulla, cioè possono succedere. Anche perché il solito discorso che ci sarà la mamma negata, buttata via, comprata, tutte queste cose. Certo, perché leggo già i tweet su questo, l'utero in affitto, le polemiche sull'utero. Se si parte dal primato della biologia, allora ci sono tantissime situazioni che vanno rifiutate. Sì, sì. Ma non è così, già non è così e non è neanche giusto. E poi comunque io ritengo che l'interesse dei bambini venga veramente prima di tutto. Quindi viva questa decisione. Anch'io sono d'accordo, perché poi l'utero in affitto, sono reali le polemiche, è anche giusto che si divida l'opinione pubblica, ma nel momento in cui determinati percorsi non sono arginabili, perché le persone che ricorrono all'utero in affitto in paesi stranieri e che poi tornano in Italia sono tante, pensare che accettare il fatto che poi abbiano due genitori incrementi il processo di coloro che vanno a cercare l'utero in affitto all'estero sostenendo le spese e così via, ma io non credo che sia un automatismo così evidente. Sì, sì. Mentre per il bene del bimbo io penso che nel momento in cui una cosa è stata fatta, il buon senso invece che essere dogmatici e ortodossi nelle proprie bisogna posizioni normare. Andare anche incontro alla pratica. Allora c'è un ascoltatore, falsi, perdete un ascoltatore, chiama subito Adinolfi, dai, su, chiama Adinolfi, scherzo, ma perché le persone non capiscono? Mamma mia, le persone, gli ascoltatori, molti, alcuni devo dire, la maggior parte no, ma molti sono fissati sul, adesso dico la cosa dotta, hic et nunc. Ti piace Luca questa? Hic et nunc. Cioè, ascoltano oggi due pareri di persone che sono favorevoli, cercano di ragionare su questa cosa. Basta! Avete perso un ascoltatore! Allora bisogna avere Adinolfi che dice talebani, le donne sfruttate, tutti i giorni così, tutti i giorni bisognerebbe avere lo stesso, no, tutto i 360 gradi di opinioni, perché sennò sennò dovresti avere uno uno per ogni sfumatura, uno che invece dice che uno che è contrario, uno che è favorevole solo per le due donne e uno che è favorevole solo per i due uomini, uno che è favorevole a metà ma il mercoledì no, il giovedì sì. Vabbè. No, ma poi non c'è la pazienza nemmeno di ascoltare delle opinioni diverse dalla propria. Sì, dire, anche d'altronde pensano così, un altro la penserà in un altro modo. Però tu, Veronica, sulla pazienza di dirci se sei single oppure no, stai sfrangiando tanti ascoltatori. Hai ragione. Parli proprio tu di pazienza. Ne abbiamo da vendere. Gli ascoltatori ben peggiore. Ne abbiamo da vendere nei tuoi confronti di pazienza su questo argomento. Andate al traffico. Brum brum brum, c'è il traffico, Milan. Faircam Distribution, spedizioni in Italia ed Europa su misura. Faircam.com vi presenta. Milan, ma in un paese dove non si riesce ad abortire, pensi che si riesca a fare un salto nel futuro come quello del suicidio assistito? Monellaccio, io sono arrabbiata, ma non con lei. Sono arrabbiata con il cattolico Gandolfini e le sue sparate. Signor Milan, noi siamo torna a faccenda della Veronica Gentile, se di nuovo fidanzata, di nuovo marito. No? A noi non ce ne frega niente, noi ce la prendiamo così com'è. Che bella guagliona là, senta a me, lascia perdere questa storiella. A new girl. Io ho spiegato ai carabinieri che vado avanti finché non vengo fermato. Con Mina Welby, con Gustavo Fraticelli, andiamo avanti fino a quando non ci sarà un'assunzione di responsabilità del Parlamento e della politica. In discussione in Parlamento non c'è purtroppo la legge sull'eutanasia, ne abbiamo depositata una 3 anni e mezzo fa, neanche un minuto di discussione. C'è un dibattito serio sul cosiddetto testamento biologico. She made herself a bed of nails and she's planning on putting it to use. Lui è Marco Cappato, colui che si è autodenunciato ai carabinieri dopo aver portato DJ Fabo in Svizzera, e anche qui le accuse adesso, vuole la ribalta, strumentalizza, eccetera. Allora, siamo con Luca Dini, direttore di Vanity Fair, e con la copertina umana di Vanity Fair, Veronica Gentile. Questa è venuta bene, sciocchina. Vabbè, siamo a tre perché prima me l'hai detto un po' in... Sì, già, ma non valgono. La copertina umana di Vanity Fair, Veronica Gentili, così a meno ambisce a... allora, ecco, io devo dire... Subito, da tre giorni, diciamo che qua si procede per contrapposte, diciamo, testate su questa vicenda anche di DJ Fabo, e non se ne va e non se ne caverà nulla quando si procede per testate da una parte i cattolici, per cui la vita è intoccabile e sacra, dall'altra parte i laici che ha la libertà individuale, e basta, sono due chiaramente posizioni inconciliabili, e come si fa a conciliare due posizioni così? E non se ne fa nulla. Però ecco, a dire adesso a Cappato che Cappato vuole strumentalizzare, prende la ribalta, cosa ha fatto? No, cioè, ha fatto una cosa pubblica, forte, e... Oltretutto, scusate l'inciso, però che Cappato milita facendo queste cose e che esiste la cosiddetta associazione Luca Coscioni, di cui io sono socia, dalla quale si possono donare dei soldi, lo ricordo. Ah, sei socia? Questo non lo sapevo. Sì, no, perché... sono tutti dettagli per un possibile futuro fidanzato. È socia dell'associazione Luca Coscioni, astenersi gli adinolfiani, per esempio. Sì, quindi... sì, ecco, sì, questi si può, proprio, li possiamo astenere proprio, categoricamente. Sì. Togliamo proprio una categoria, la escludiamo. Mamma mia, ecco. Che livore, No, perché su queste cose, ecco, per esempio lui si occupa di queste cose da tanti anni, ha fatto tante battaglie, molto più in sordina, perché chiaramente la faccenda di DJ Fabo è venuta alla ribalta prima, precedentemente, per gli appelli che lui ha fatto al Presidente della Repubblica, per tutta una serie di ragioni, perché è una vicenda anche proprio da un punto di vista visivo che è stata di enorme impatto e molto violenta. Quindi dire adesso che Cappato strumentalizza le cose, l'anno scorso ve la ricordate la vicenda della militante radicale? Sì, come no. Dominique Velardi, che anche lei fece la stessa scelta e Cappato l'accompagnò. Fanno per quanto possono, a quello servono i fondi donati all'associazione. Sì. Contribuiscono economicamente per delle spese minime. No, è chiaro che ne vogliono anche far parlare, ci mancherebbe. Cioè, se no. Se non se ne parlasse, il vuoto normativo ce lo teniamo per sempre. Però anche questo, Luca, aiutami. Sull'eutanasia, ho ragionato molto, anche qui non ragiono per categorie etiche, sarei anche favorevole, pensate, all'introduzione dell'eutanasia in Italia. L'unica perplessità, effettivamente pensandoci, è che siamo italiani. E figurati se ci fosse un domani l'eutanasia, se non uscirebbero gli scandali e se non ci fossero delle situazioni tipo quelle il nonno, facciamolo fuori, perché ne verrebbero fuori sicuramente di situazioni così. Noi pensiamo, guarda, sempre adesso, onestamente, se uno il nonno lo vuole fare fuori, lo fa fuori già adesso. Però non sono d'accordo. Ha ragione Luca Alessandro. Cioè, nel senso che intanto, se si fa un ragionamento serio sul testamento biologico, il nonno dice che cosa vuole che venga fatto. E sarebbe ora, veramente, questa era una battaglia di civiltà importantissima, altro che la scissione del PD. Questo è importante, perché le persone devono essere coscienti, e se non c'è coscienza è semplicemente perché c'è un'ipocrisia per cui molti dei cattolici che oggi gridano lo scandalo, vorrei sapere quanti di loro non sanno o non hanno sperimentato direttamente la pietà con cui capita di abbassare l'ossigeno a una persona che se n'è già andata, cosa che succede ogni giorno in tutti gli ospedali italiani, basta parlare con un medico. È solo ipocrisia, cioè non è sacralità della vita. Sacralità della vita vuol dire rispettare la vita e la sua dignità. Quando una persona deve rinunciare alla sua dignità, che vita è? Cioè, ma non è rispetto della vita. è rispetto di un dogma e basta. Io però, ecco, l'unica perplessità, ripeto, è sull'eutanasia, ce l'ho, ecco, su quello, cioè del rischio che, perché sai, non sono tutte le persone previdenti, intelligenti da pensare a un testamento biologico, a raccontare, ci sono anche sacche, come dire, di, diciamo chiaramente, anche di ignoranza, di incapacità di prendere decisioni su questo, in cui si annida il rischio, secondo me, di qualcosa di brutto. Però, ecco... Però è anche vero che se tu fai una legge, in qualche modo, una legge la fai anche per tutelarti da questo, nel senso, sì, che fare una legge sull'eutanasia non significa mettere tutti nella condizione senza... controlli e garanzie di essere spinto, no, perché altrimenti avalliamo la teoria, no, della cultura dello scarto. Però ci dobbiamo fermare, Veronica, io ho solo tempo. Ecco, vedi, questo lo conosco, Luca, questo lo conosco, Ed Sheeran in copertina di Vanity Fair. Se metti un buon cantante, io lo conosco quello. Finalmente sapere chi è. Finalmente siamo arrivati alla copertina. Quante ne hai fatte di copertine tu da direttore? Mamma mia, credo un 700. Siamo arrivati alla copertina 700, alla 700esima copertina decisiva di Vanity Fair, e io ho riconosciuto di primo acchito chi è il ritratto. Ed Sheeran, in attesa della prossima, Veronica Gentili. Intanto vi ringrazio e vi do una buona giornata. Alla prossima. Anquo Alessandro Mina e leggerà i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? 24 mattino. E quanti cascate! C'è mica il suono dei dobloni che cascano sul mio capo, caro Peter Pescapè? Sì, devo pagare due multe, quindi sì, devo pagare anche la tua. No, ascolta, la tua adesso te la sei presa tu, non ho capito, devo anche pagarti la multa. Ah, vabbè, sono le 7:19 minuti, siamo qui nello spazio dedicato alla rassegna stampa e quindi la lettura dei giornali, qua a 24 mattino. Siamo pronti e andanti? Vai! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È marzo, signori! Mercoledì 1 marzo, siamo con i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, la BCE stretta sul rischio derivati. Questo è il titolo di prima pagina. Poi molti quotidiani aprono su questa decisione del Tribunale di Trento, da cui partirò anch'io nell'approfondimento. I gemellini con due papà, Corriere della Sera. Nati con la maternità surrogata, il giudice dice non si è genitori solo per i geni. Anche La Stampa, i giudici sia la coppia di padri gay. Questo è il titolo di prima pagina. Poi per il Fatto Quotidiano, cucù, gli 80 euro non ci sono più, 2 milioni di beffati. Anche La Verità apre su questo, 2 milioni di italiani costretti a restituire il bonus di 80 euro. Repubblica, PD scoppia il caso tessere, a Napoli le offrono gratis. Mentre per il Messaggero, IRPEF 12 milioni non la pagano. I redditi degli italiani, la metà sotto 15.000 euro, zero tasse per un contribuente su tre. Ci sono poi titoli come quello di Libero, dedicato ancora a DJ Fabo. Siamo pronti alla morte, è il titolo. Dopo DJ Fabo, un altro va in Svizzera per l'eutanasia. Non è eutanasia, ma comunque il concetto... ci siamo capiti. Il Giornale invece mette insieme la vicenda di DJ Fabo, ma il titolo in realtà è proprio sulla questione di Trento. Eutanasia delle mamme soppresse dai giudici, sentenza shock, utero in affitto, due uomini gay riconosciuti padri. L'apertura invece del Manifesto, i dannati dei voucher, oltre il danno la beffa, nel rapporto CGIL la drammatica condizione dei voucheristi sfruttati sul lavoro, in coda alle classifiche dei precari con una futura pensione di 200 euro. Sulla vicenda dei due padri gay, anche Avvenire titola «Una corte legalizza l'utero in affitto». E allora vediamola questa questione. Pagina 8 del Corriere della Sera, intanto, la cronaca, Elena Tebano. Per la prima volta una coppia di gemelli ha anche in Italia due padri a tutti gli effetti. I bambini sono nati in Canada 6 anni fa, grazie alla maternità surrogata. e i loro padri, che vivono in Trentino, sono stati entrambi registrati come genitori in Canada. Ora, con ordinanza del 23 febbraio, la Corte d'Appello di Trento ha stabilito che era illegittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile di un comune in provincia di Trento di aggiungere sull'atto di nascita dei bambini anche il nome del papà non biologico. In Italia, dice l'avvocato Alexander Schuster, che li ha rappresentati, ci sono stati solo un paio di casi in cui il genitore non biologico è stato riconosciuto, ma sempre grazie alla cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione in casi particolari ammessa dalla Cassazione per le coppie omosessuali. Per la prima volta, invece, il secondo padre è invece genitore a pieno titolo. I giudici scrivono infatti che la trascrizione dell'atto di nascita non è contraria all'ordine pubblico perché, come stabilito dalla Cassazione, per esserlo non basta una mera incompatibilità della norma straniera con la legislazione nazionale vigente. E soprattutto si racconta che le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti della legge 40 del 2014 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso a una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale, che deve essere tutelato, alla conservazione dello status filiationis legittimamente acquisito all'estero. Per questi motivi molto tecnici, molto legati alla legge, c'è la prima sentenza con due papà, entrambi da considerare papà di due gemellini. Sentenza storica, e c'è un'intervista a Nichi Vendola, che raramente ha parlato della sua vicenda, ma oggi con Alessandro Trocino si apre un po' a pagina 9 del Corriere della Sera, definendo questa ordinanza una finestra sulla vita. Tra l'altro aggiunge Vendola: un figlio è un impegno fisico travolgente, eppure sì, ci piacerebbe averne un secondo. Aggiunge Nichi Vendola: è un anno che vivo con lui, per la legge italiana non sono nulla. Non è passato giorno senza che gli dessi il biberon, che gli cambiassi il pannolino. Ci gioco come un matto, lo nutro, lo curo, lo amo alla follia, eppure vivo in un limbo giuridico. Vedo lo sguardo di mio figlio che mi cerca in ogni momento e l'idea che io, per lo Stato, non sia nulla per lui è un'idea drammatica, che può avere conseguenze catastrofiche. Io sono privo di diritti nei suoi confronti e lui nei miei. Ora, dopo questa sentenza, la vita ci ha travolti, non abbiamo avuto il tempo, ma accadrà molto presto che valuteremo con gli avvocati se anche noi imbarcarci con la richiesta in tribunale per il riconoscimento della paternità. Per alcuni suo figlio non dovrebbe essere mai nato. Il problema, risponde Vendola, è che c'è. E poi parliamo delle donne. Una ci ha donato un ovulo, una ha accettato di portare nella pancia un progetto di vita. Queste donne sono parte della nostra vita, vivono in California ma ci sentiamo via Skype, siamo vicini. Per me e Ed, cioè il compagno, è stato pregiudiziale definire la qualità del rapporto, che non vi fossero condizioni di miseria. E tutti i pediatri che hanno incontrato il nostro figlio dicono che è l'immagine della serenità e della felicità. Quest'anno abbiamo sempre ricevuto un'accoglienza affettuosa, soprattutto dalle donne. Non sempre dalle famiglie tradizionali arrivano esempi luminosi. E conclude l'intervista Nichi Vendola alla domanda: nel frattempo sa che è stato detto e scritto di tutto su di voi? Il sorriso di mio figlio mi ripaga anche di questo. Così Nichi Vendola parla di questo tema. Beh, l'altro tema etico molto dibattuto, lo sapete, dopo la scomparsa e il suicidio assistito di DJ Fabo, è la vicenda sul fine vita, le polemiche in Italia, Marco Cappato che si è autodenunciato dopo aver accompagnato DJ Fabo in Svizzera. Tra l'altro oggi, giustamente, la cronaca porta alla luce un altro caso di un altro italiano che proprio il giorno dopo DJ Fabo ha deciso di compiere lo stesso percorso. Si chiamava Gianni Trez, e ieri ha posto fine alla sua vita nella stessa clinica di DJ Fabo. Oggi Giusy Fasano, inviata del Corriere della Sera, intervista la moglie a pagina 5. Gli ho stretto la mano e lui ha sorriso. Gianni voleva morire così, dormendo. È stato colpito anni fa da un tumore alla bocca. Mio marito, dice la moglie, non era tipo da dire ti amo, cose del genere. Non parlava più da tempo, poteva solo scrivere. In questi giorni ci siamo detti un milione di cose, tutte quelle che non ci eravamo dette in una vita. Mentre moriva, eravamo ai lati del letto, io e mia figlia, gli abbiamo stretto le mani, lo abbiamo visto sorridere. Mi sono sentita sollevata l'idea che se ne sia andato senza soffrire. È stata una liberazione. Perché vederlo soffrire in quel modo assurdo e sapere che da noi non aveva la possibilità di decidere il suo finale è stata una crudeltà aggiunta alla crudeltà della malattia. E racconta questa storia. Per la verità, oggi Repubblica, con Jenner Meletti, porta alla luce un'altra vicenda che, se ricordate, si è concretizzata circa un anno fa, quando Daniela Cesarini, che era stata anche assessore a Iesi, colpita dalla poliomielite, ha avuto il suicidio assistito in realtà ormai 4 anni fa, era il 25 aprile del 2013, a 66 anni. Oggi, dopo tutte le polemiche, i familiari di Daniela Cesarini dicono a Repubblica in realtà si è suicidata in quella stessa clinica in Svizzera senza che fosse malata, e in Svizzera hanno fatto carte false per fare business. Ci hanno dato un giorno la comunicazione: guardate che la vostra parente Daniela Cesarini ha chiesto e ottenuto di morire. Noi cerchiamo la dottoressa Erika Preisig, che ci chiamò, ci mandò questa lettera, notificandoci anche il fatto che ci sarebbero arrivate le ceneri. Parlammo con lei dopo una settimana di tentativi di inutili, e ci disse che era malata terminale la nostra parente e che pertanto la sua richiesta di farla finita era stata accettata, ma non aveva presentato certificati, ma solo medicine che provavano gravissime malattie. La salma era già stata cremata, impossibile trovare conferme o smentite alla sua tesi, e i parenti dicono in realtà non aveva alcuna malattia. Aveva manifestato certo il desiderio di morire, ma non era una malata terminale. E tra l'altro oggi i familiari di Daniela Cesarini denunciano, alla fine di quel colloquio, la dottoressa Erika Preisig, appunto di questa associazione, ci disse anche: cari parenti, siamo stati a colloquio per un'ora, ma state tranquilli, a voi non farò pagare nulla. Cioè l'accusa di questi parenti è: basta presentarsi lì con i soldi, 10.000 euro, e inventano anche delle malattie gravi per portare avanti la pratica. Comunque la pensiate, oggi avrete ancora tanti articoli da leggere sui giornali. Questa invece è una storia per me allucinante. Io l'avevo letta da 2 o 3 giorni, oggi sui giornali ha un ampio risalto rispetto ai giorni precedenti, ed è l'articolo che mi fa storia della giornata, l'articolo da Mani sul Volante, o meglio gli articoli, perché Giornale, Libero, il giorno dedica 2 pagine, il Giorno ha tirato fuori questa vicenda da qualche giorno. È abbastanza incredibile. Succede a Firenze, dove una donna è stata aggredita alle 3 di notte. È stata aggredita, immaginate per quali motivi. Sono passate le 3 quando Sara, come ogni notte, al termine del turno al pub, sta tornando a casa, affretta al passo, viene seguita da un 29enne indiano che la punta con intenzioni poco rassicuranti. A un certo punto le mette una sorta di cappio al collo, cioè la cintola della felpa. Lei riesce a dimenarsi, ha fatto un corso di difesa personale, riesce dunque ad assestare un paio di calci al basso ventre all'aggressore, che fugge, poi viene identificato. E il giudice dopo 2 giorni lo rilascia dicendo: non è provato che volesse violentarla, non l'ha palpeggiata, non l'ha spogliata, non si è svestito. A carico di lui resta certamente il reato di lesioni aggravate. Lo stesso indiano dice: avevo perso il cellulare e temevo che fosse stata lei a rubarmelo. Certo, quindi uno la aggredisce, cappio al collo. E ora la mamma di questa donna dice: non ha subito abusi, ora la colpevole diventa mia figlia. Eccola qua, l'ira della ragazza. La madre dice si è sentita tradita e offesa. E c'è su tutti i giornali. Confessa la violenza, perché ha confessato in un primo momento questo indiano. Poi ha detto no, mi hanno estorto la confessione. Confessa la violenza, poi ritratta, libero. Il giudice dice non è provato il tentativo di stupro. Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Alessandro Milan, il leone da microfono dell'informazione. Eccoci qua alle 7:37 minuti. Allora, non riparto dalla noiosissima politica, ma ci sono delle notizie più interessanti che ho scovato qua e là oggi sui giornali, davvero ricchi di belli spunti. Intanto Marco Mobili e Giovanni Parente raccontano in prima pagina del Sole 24 Ore la fotografia definita, per la verità ormai ingiallita, quella del Dipartimento delle Finanze sulle dichiarazioni IRPEF di dipendenti pensionati autonomi. Allora, sappiate che metà dei contribuenti italiani continua a dichiarare meno di 15.000 euro l'anno. C'è la solita Italia a due velocità: in Lombardia il reddito medio è di 24.520 euro, in Calabria 14.780 euro. Un dato invece, o meglio due, destano curiosità. Uno su tutti: 1.700.000 italiani hanno restituito in parte o totalmente il bonus da 80 euro. L'altra cosa che desta curiosità: sindaci e governatori hanno reso più salato il conto IRPEF del 5%. E infatti poi continua l'articolo: IRPEF, conto più salato col fisco locale. Ma certo, anche questa cifra di 1.700.000 italiani, di contribuenti che hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il bonus ricevuto per un importo di 508 milioni di euro, non è male. Sono quelli gabbati, diciamo, dagli 80 euro. Come racconta Roberto Petrini su Repubblica a pagina 15, la spiegazione è presto detta. È un errore spiacevole, scrive Petrini, ma dovuto a circostanze tecniche. Il datore di lavoro ha tenuto conto dei redditi presuntivi che in alcuni casi, facendo riferimento all'IRPEF pagata l'anno precedente, sono risultati più alti, sfondando la soglia degli 8.140, hanno così dato automaticamente diritto all'erogazione del bonus. Quando il fisco ha rifatto i conteggi, ha ricollocato questi contribuenti tra gli incapienti, cioè sotto gli 8.140, e ha chiesto loro la restituzione del bonus, compensando tuttavia la somma con l'aumento delle detrazioni. Fenomeno diverso nella fascia alta: alcuni, per via di collaborazioni e altre attività, hanno superato i 26.000 euro dichiarati e dunque sono passati tra i non aventi diritto e hanno dovuto restituire il bonus. Questo il dato di fatto tecnico. Sia La Verità che Il Fatto Quotidiano mettono in prima pagina la notizia. Il Fatto Quotidiano così: cucù, gli 80 euro non ci sono più. Ma è una spiegazione tecnica, insomma, che piaccia o no, però c'è illusione: 80 euro in 2 milioni li hanno restituiti per Il Fatto, mentre La Verità, per 2 milioni gli 80 euro erano uno scherzo. Invece qui dovremmo parlare di un'altra cifra che l'Unità e il Manifesto mettono in evidenza in prima pagina. Non sono 80, ma sono 200 euro, e 200 euro è la pensione calcolata da uno studio della CGIL per una vita da voucherista, chiamiamola così, anche se non è certamente un bel modo di categorizzare le persone. Sei un voucherista? Se ti va bene avrai 200 euro di pensione. Antonio Sciotto scrive a pagina 2 del Manifesto: per i voucheristi allarme pensione. Se un assegno previdenziale dignitoso col sistema contributivo è già una chimera per tanti, quelli che si arrabattano tra contratti a termine, collaborazioni, partite IVA, se andiamo a guardare chi lavora esclusivamente con gli ormai famigerati ticket, sembra anche impossibile solo ipotizzarlo un reddito da vecchiaia. La denuncia viene dall'Inca CGL nel rapporto voucher, buoni per oscurare lavoro e tutele. Le previsioni sono drammatiche: il futuro assegno pensionistico dei voucheristi sarà in media di 208 euro mensili, meno della metà della pensione sociale di circa 500 euro. La CGIL, presentando questi dati, ha aperto poi un nuovo fronte polemico contro l'INPS. 50 centesimi per ogni buono acquistato vanno all'ente guidato da Boeri, ma non concorrono a coprire contributi. Si tratta di una specie di aggio, attacca il sindacato. Una commissione piuttosto alta, pari al 5%, paragonabile a quella pretesa da Equitalia. E anche l'Unità, dopo una vita di voucher, 200 euro al mese di pensione. Vogliamo continuare a parlare di soldi, percentuali? Il Messaggero mette a pagina 3 un'ipotesi che si sta profilando per la famosa manovra da 3,4 miliardi che dobbiamo dare su richiesta dell'Unione Europea, la correzione dei conti. Ebbene, c'è una proposta sul tavolo del governo che è quella di aumentare la tassa sulle vincite del gioco, attualmente del 6%, portarla al 9% o al 10%. È il cantiere della manovra, racconta Andrea Bassi a pagina 3 del Messaggero. Il governo ha promesso all'Europa di presentare entro aprile questa manovra a 3,4 miliardi ed ecco un nuovo mattone, una nuova idea, una nuova stretta sui giochi dalla quale il governo punta a recuperare almeno 300 milioni di euro. Le ipotesi allo studio sarebbero ridotte a due. La prima, un aumento della cosiddetta tassa della fortuna. Il prelievo oggi a 500 è fissato al 6% su tutte le vincite superiori a 500 euro a parte il lotto. L'idea è portarla al 9%. Questo porterebbe 200 milioni di euro, secondo le stime, nelle casse dello Stato. Questo nel presupposto che il prelievo fosse applicato con questa aliquota. Risulterebbe però complicato giustificare che c'è solo una categoria di giocatori, quelli del lotto, tassati per le mini vincite. Tra le ipotesi, dunque, quella di estendere la tassa ai premi sotto i 500 euro anche agli altri giochi. Poi c'è un'altra suggestione che circola, portare la tassa sulla fortuna al 12,5%, lo stesso prelievo che lo Stato applica su BOT e BTP. Vedremo che cosa rimane di tutto ciò. Staremo a vedere. Tanto le risposte ce le dà tutte Mauro Meazza, che sa queste ipotesi, di quale di queste ipotesi poi si ragionerà in futuro. Ciao Mauro. Ma certamente, caro Alessandro, tu intanto comincia ad aprire il portafoglio e vediamo, metti da parte due eurini come al solito e poi si vedrà come partecipare a questa gara, insomma, di solidarietà per quanto riguarda l'Unione Europea. Ti voglio dire, oggi non devi trascurare di leggere le pagine di Impresa e Territori. Perché te le segnalo? Perché già ho visto che ti sei appassionato, ho sentito che sei appassionato alle pagine sull'IRPEF e me ne compiaccio, ma nelle pagine di Impresa e Territori potrai apprendere due cose che giudico interessanti. L'uno, da oggi si può prendere lo sconto del sisma bonus, sì. Quello, lo sconto fiscale maggiorato per mettere in sicurezza le case in zone a rischio sismico. Allora ti spieghiamo che cosa è successo, è stato varato il decreto con le classi di rischio, trovi tutto su Imprese e Territori. E poi nella pagina a fianco, che potremmo anche mettere con due S, nella pagina a fianco c'è il fatto che sono risaliti i precari della scuola, sono ritornati a salire, ora sono 80.000 e ti spiega perché Claudio Tucci, sai che da anni si cerca di svuotare queste graduatorie dei precari, ma evidentemente continuano invece a salire. Oh, poi non vorrei che tu trascurassi l'inflazione, mi raccomando. E c'è stato un buon segnale, anche se, come ti spieghiamo, questo balzo in avanti è positivo, ma solo parzialmente. Quello che vediamo come positivo è che sono aumentati un pochino i consumi, insomma c'è voglia magari di spendere qualche cosa di più. Quando poi, attraversando avidamente le pagine di finanza, quindi scoprendo che per il Milan non è ancora probabilmente la settimana decisiva, faremo tutto il primo aprile. Che è una data che è così, che forse torna bene, si parla di fine marzo, devo dire, però non l'hanno messo al primo aprile il closing finale, sarebbe perfetta come conclusione il primo aprile. Decido comunque di non infierire, sì, dicevo passando le pagine di finanza che tu leggerai avidamente, approderai a quelle di norme e tributi. Allora sappi che, a proposito di norme e tributi, oggi con il Sole 24 Ore 16 pagine per la conciliazione tra regole di bilancio e regole fiscali. è il tema dell'anno, so che te ne ho già parlato, tieni caro questo inserto, queste 16 pagine. E poi scoprirai nelle pagine norme e tributi che è stata varata la legge che rivede le responsabilità dei medici e del personale medico, una legge che ora andrà attuata, ma che è molto importante in caso di errori e anche per le polizze assicurative. Tutto ciò nelle pagine norme e tributi che tu devi leggere come sempre. Scrupolosamente. Ma no, religiosamente. Basta che cediamo un attimo e subito ti smarrisci. Ripassa mentre sentiamo il traffico. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. Alino Milan, il ballo sotto la doccia dell'informazione. Non dico nulla. Vabbè, questa è la rassegna stampa di 24 mattino, Signori, allora, la politica, vi voglio solo segnalare tra i vari articoli, sempre pieno di risse, eccetera, che cosa? Il caso delle tessere comprate a Napoli del Partito Democratico, una denuncia in prima pagina di Repubblica. Anna Laura De Rosa e Alessio Gemma raccontano di questa storia in un circolo del PD, in un quartiere popolare a Miano, periferia nord della città, dove vengono offerte gratuitamente in un circolo nell'ultimo giorno utile per l'iscrizione a decine di cittadini, vengono forniti 10 euro per iscriversi al PD. Serve solo la carta d'identità, i 10 euro ve li danno loro, così una signora bruna, robusta, dà indicazioni per l'iscrizione e il rinnovo della tessera del PD, a Miano appunto, piazza Regina Elena, ultime ore per strappare l'adesione del PD in vista del congresso nazionale, ed ecco allora che arrivano le tessere comprate. Questa è la denuncia del quotidiano Repubblica. La politica che tra l'altro litiga molto sul tema dei vitalizi. Sul tema dei vitalizi si litiga molto perché ci sono varie proposte politiche. L'ultima in ordine di tempo è stata quella fatta dal Movimento 5 Stelle, l'operazione chiamata Pensione come tutti, lanciata lunedì per equiparare i trattamenti riservati ai parlamentari a quelli della gente comune. Una proposta che sembra già finita su un binario morto, questo racconta per esempio La Stampa, raccontano tutti i giornali. A silurare questa proposta è stato quello che dovrebbe essere il primo interlocutore di un'operazione del genere, ovvero il presidente dell'INPS Boeri, perché ha detto la proposta del Movimento 5 Stelle trascura un aspetto importante. È possibile fare cambiamenti all'interno del regolamento della Camera senza dover passare per una norma di legge se si incide unicamente sull'ammontare dei pagamenti fatti ai parlamentari. Laddove si sostiene che i vitalizi vanno invece equiparati alle altre pensioni e quindi possono esserci anche contributi cumulati, allora c'è bisogno di una legge ed è necessario che venga creata una gestione presso l'INPS o qualche cassa ad hoc. Insomma, ha detto Boeri, la legge è stata scritta un po' in fretta. Questa è un po' la denuncia del presidente dell'INPS. E allora ecco, vitalizi stop di Boeri al 5 Stelle, anche le Camere verso il no, questo è il titolo della Stampa, ma anche il Fatto Quotidiano dedica una pagina a questo. Questo per quel che riguarda la politica. Ci sono altre notizie che sono degne di nota, come l'apertura per esempio di Italia Oggi. Italia Oggi titola: molti avvocati, molti processi. Molti avvocati, molti processi. Questa è l'apertura. I distretti con la più alta densità di illegali rispetto ai residenti sono quelli con la più alta percentuale di liti. È l'apertura di Italia Oggi ed è il titolo che vi segnalo. Siamo in chiusura, dai, la carta costa è l'ultimo articolo dedicato oggi alla rassegna stampa. Una pagina del giorno dedicata alla consigliera di Trump, presidente americano coi piedi sul divano, Kellyanne Conway. E allora non può. E dice il giorno, i piedi sul divano dello studio Ovale, la super consigliera che può tutto. Ma chi se ne frega!